questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche il perdibile, ma questa settimana non c'è niente di perdibile tra TV, web TV, social TV. Questa settimana soprattutto la televisione e le serie che viaggiano via rete. Daniele, mi sono talmente preparato che ho preso gli appunti, guardali, guardali alla radio, ho preso gli appunti con lo schemino. Tutti scritti a mano, che bravo. Beh, certo, a mano, ogni tanto si può ancora scrivere a mano. Non sono più tanto capace. Invece leggo dal tuo copione, non sei più tanto capace di scrivere. No. Non scrivi più niente a mano, la lista della spesa, scontrini, no, niente. Allora, anche voi potete mandarci le vostre segnalazioni anche scritte a mano, anche scritte a mano, ma su Twitter però, attraverso i nostri account @MartaCagnola @DiBellasio eppure con l'hashtag RadioTube. Da settimane noi parliamo di web series, ce ne sono alcune che soprattutto piacciono molto a Daniele. Ogni tanto mi dice: ma mandiamo in onda una puntata di questa web series e basta, noi non parliamo, lasciamo in onda, sono troppo bravi. Sì, esatto. Ce ne sono alcuni che ti piacciono molto. Quando è che ti ho detto questo? Guarda, quando abbiamo parlato la scorsa domenica di letteratura e web, perché c'era una bellissima puntata di una web series, quella di Fabio Volo. Ho scoperto che tu hai letto tutti i libri di Fabio Volo. Ho letto quattro libri di Fabio Volo. Bellissimo. Ma non divaghiamo, perché il nostro core business della puntata non è Fabio Volo, ma sono le web series. Sì, le web series. Una puntata speciale, e per commentare questo argomento sempre di attualità, ma in particolare in questo periodo, perché gli autori delle web series stanno avendo un grosso successo anche al di fuori della rete. E questo mi preoccupa, mi voglio schierare contro questo aspetto. Abbiamo un'ora per parlarne, un'ora per schierarti contro questo aspetto, e lo facciamo, ne parliamo per la prossima ora con una super super esperta, scrive di televisione e anche di web series su Europa, su Corriere.it. Per Mainstream, che è una bella trasmissione di Rai 4. Buonasera Stefania Carini. Buonasera a voi. Poca voce Stefania, la dobbiamo far sensuale, come Valeria Golino. Scusatemi per questa voce. Ha guardato troppe web series, è stata sveglia a guardare troppe web series. Ho studiato troppo per questa puntata. Hai ragione. Stefania, si può trovare una prima web series? Cioè, c'è un punto di partenza? La prima web series non si scorda mai? Allora, diciamo che è un po' difficile, come forse un po' difficile trovare il primo film, il primo romanzo, il primo telefilm. Alcuni esempi di serie web ci sono stati negli Stati Uniti già nel 1995, nel 2000, create magari da MTV. C'è una serie molto interessante, Lonely Girl 15, che è apparsa inizialmente negli Stati Uniti, si credeva fosse una ragazza che parlava attraverso un videoblog, e in realtà progressivamente si scopriva che quella era una serie web, era un racconto, era una finzione. C'è stato Prom Queen, che è stata la prima serie web prodotta da un grande produttore, un ex produttore della Disney. Però se vogliamo possiamo parlare come primo esempio, grande esempio di serie web, Dr. Horrible Sing-Along Blog. È una serie creata da Joss Whedon che ha cambiato l'industria. Abbiamo un frammento di questa Dr. Horrible, Valeria in regia ce lo fa sentire, perché chissà se riconoscete la voce. Laundry day, see you there, under things, tumbling. I protagonisti di questa Dr. Horrible sono degli attori straordinari, in particolare l'amatissimo Neil Patrick Harris, che è stato anche il grande protagonista di How I Met Your Mother, serie culto che è finita poche settimane fa. E la caratteristica di questa serie TV è stata che la sua fortuna è cascata anche temporalmente in un momento molto difficile. Daniele, ti ricordi quando c'è stato lo sciopero degli sceneggiatori delle serie TV? Eravamo rimasti all'asciutto. Allora il sindacato aveva deciso che c'era questo sciopero, quindi niente, si è fermato tutto il mondo, e quindi sono andati sulla rete. Siccome Joss Whedon è un grande autore televisivo, basta ricordare Buffy, ed è anche un grande regista cinematografico, durante lo sciopero invece di scioperare ha deciso di fare altro, deciso di creare questa serie web con attori famosi, lui sceneggiatore e regista, una serie che mescola un sacco di generi come fa sempre Joss Whedon con i suoi prodotti, e ha dimostrando così all'industria che, beh, sì, si può scioperare. Si può scioperare tra l'altro proprio perché non ti riconoscono alcuni diritti per ciò che scrivi anche per il web, perché quello sciopero era nato per il fatto che ormai l'industria chiedeva agli sceneggiatori di scrivere di più proprio per produrre anche per il web. Ebbene, lui ti dimostra... Come nei giornali, la stessa cosa. Assolutamente. Solo che lì hanno vinto. Hai visto? Chi ha vinto? hanno vinto gli sceneggiatori. Ma che caratteristica deve avere per essere una web serie? Cioè deve essere inedita per gli altri mezzi e deve essere uscita per la prima volta su internet, questo è il concetto, però può essere prodotta anche dai big. Allora sì, diciamo che è un prodotto che può essere originale, cioè creato solo per il web, oppure può essere un prodotto derivato, perché ricordiamoci che ci sono un sacco di serie web che in realtà... derivano da telefilm famosi, ed è uno dei motivi per cui scioperavano gli sceneggiatori. Ma come, io scrivo per la TV, però se mi fai scrivere anche per il web voglio guadagnare anche su quel prodotto derivato. Una serie web è sicuramente seriale. Sulla durata degli episodi di solito sono ovviamente più brevi, ma ci sono anche serie web che durano anche mezz'ora, anche un'ora. Allora a quel punto diventa anche difficile capire cosa sono serie web o sono telefilm. A me viene in mente, magari dopo ne parleremo, House of Cards. In fondo House of Cards ci arriva, certo, attraverso un metodo di trasmissione che è quello internet. È una serie web? Molto difficile. Leggevo l'altro giorno che il 50% di chi guarda un video su internet dopo un minuto e mezzo cambia. No? Devono essere proprio belle per rimanerci. Devono essere proprio bravi per farle. A proposito di rimanere e di non andare via, noi no, adesso abbiamo... c'è già. Sì, abbiamo già il traffico, però ci ritroviamo tra... Ma il traffico è stupendo, quando meno te lo aspetti arriva, come l'amore. Arriva, come la... insomma, vabbè, vediamo se ci fa lo stesso effetto. Radio Tube. Torniamo insieme con questa puntata speciale nella quale stiamo parlando di web series, perché noi parliamo sempre di appunto TV, web TV, social TV, ma c'è una nuova frontiera della televisione che per alcuni è il futuro, per altri invece è assolutamente il presente, che è quella che viaggia solo o innanzitutto via rete. Ci sono delle serie irresistibili nate per la rete, che viaggiano per la rete e che hanno ormai un successo veramente fortissimo. Abbiamo citato degli esempi americani, Stefania, prima del traffico. Ci sono anche degli esempi italiani, sono nate delle vere e proprie star in Italia. Sì, assolutamente. Diciamo che inizialmente abbiamo avuto famosi youtuber, ragazzi che avevano un videoblog, che si mostravano al pubblico e raccontavano la loro vita in maniera divertente. Poi progressivamente anche da noi abbiamo avuto dei gruppi che hanno iniziato a produrre i loro racconti autonomi. Si può dire che sicuramente nel 2011 Freaks è stato un grande successo e ha mostrato per la prima volta al pubblico, non solo della rete ma anche, diciamo, a noi giornalisti, la potenzialità del racconto seriale. Non cazzo. Tu non ci vedi? Amore. Amore, che vuol dire? Ehi, ehi, stai bene? Adesso chiamiamo l'ambulanza, ok? Così ci danno una mano, capito? Oi. Una serie web che mescolava X-Men e Heroes e altri esempi di racconto anglo-americano, una serie moderna, una serie per ragazzi, che ha avuto uno strepitoso successo e che ha lanciato l'idea di serialità sul web finalmente anche in Italia in maniera più compiuta. E poi è arrivata Lost in Google. Ok, ora provo a cercare The Jackal Production. Hai mai provato a cercare Google? Su Google. È arrivata Lost in Google e ha cambiato un sacco di cose, soprattutto perché ci ha fatto conoscere un gruppo di pazzi, scatenati, di ragazzi totalmente folli che hanno cominciato a fare delle cose che ci hanno davvero fatto impazzire. Allora, io vorrei intanto mostrarvi alla radio un piccolissimo frammento di una serie che si chiama Nipples, proprio come i capezzoli, Nipples. Sentite qua. Come vorrei rispondere alla mia ragazza quando faccio tardi ad un appuntamento? Amore, scusami. Sì, allora che ti aspetto? Non ci si comporta così. Che cazzo ti credi di essere? Roxy, non è tanto chi sono, quanto quello che faccio che mi qualifica. Ciro. Come rispondo sul serio? Scusa, mi fa un'ora di ritardo, ma che ti credi di essere? Non mi interessa. Io sono qui da un'ora sotto la pioggia, ti sto aspettando. Io non hablo, tu idiota! Hai chiamato? Sei come figlia. Io non hablo tu idioma, secondo me è un punto altissimo. Devi provare, Daniele, quando una persona tu idioma, a un certo punto io non hablo tu idioma. Faccio, è sì, favoloso. Sì. Io sono una fan di questo gruppo di ragazzi napoletani totalmente pazzi. Sono i The Jekyll e noi abbiamo noi... Sono al telefono. Sono al telefono, ce li abbiamo al telefono. Abbiamo Ciro Priello, buonasera Ciro. Ciao a tutti. E abbiamo anche Alfredo Felaco, buonasera. Ciao. Allora ragazzi, come nascono i The Jekyll? Diciamo che noi dal periodo dell'apertura di YouTube abbiamo cominciato a fare dei video parodici di, per esempio, film americani che ci piacevano tanto. Quindi una delle prime parodie è stata, per esempio, Il Piccione, che era una rivisitazione del Corvo, però fatta in chiave un pochino più napoletana, un pochino più low budget, quindi con un piccione come protagonista. E poi piano piano siamo cresciuti, abbiamo cercato di fare cose sempre un pochino più grandi, sempre divertendoci, certo, e a un certo punto poi è arrivata Lost in Google. Lost in Google è stato più che altro un esperimento sociale, insomma, anche perché chi l'ha visto sa benissimo che comunque veniva scritto di volta in volta dagli utenti che postavano i loro commenti, e infatti il nostro sceneggiatore è impazzito leggendoli tutti per cercare di riadattare, insomma, di costruire la storia, una trama. C'è una serie delle vostre, perché voi avete varie serie, che a me piace tantissimo, e anche qui ne mostrerei un frammento alla radio, di questa proprio ne posso mostrare solo un frammento perché la dobbiamo spiegare, che è Vrenzole. Nella precedente puntata di Vrenzole. Buongiorno signora! Buongiorno a voi, tutto bene? Tutto bene, grazie a stai! Ha visto terremoto, signore! Oh, ma visto no, panamoto, no, signore, faccio il servizio la mattina finale, richiudono che mi incopanano! Allora, sono due signore che poi in realtà siete voi, cioè non sono due signore vere, che si parlano dal balcone come si usa in certe zone d'Italia, forse si usa in tutta Italia, e cominciano a parlare di qualsiasi argomento, del terremoto, del Festival di Sanremo, e diciamo che se ne capisce solo la prima parte, perché poi quando comincia la discussione diventa un totale, sì. Esatto, è un po' quello il divertimento, perché poi ci sono persone che cominciano veramente a postare traduzioni di quello che dico velocemente. Noi in realtà Vrenzole, chi ci segue sulla nostra pagina Facebook sa che noi molto spesso commentiamo fatti di attualità, e Vrenzole nasce proprio come contenuto web per parlare d'attualità. Invece di fare il semplice post ironico, ci piaceva l'idea di poter fare questa serie di pillole, mini pillole, nelle quali raccontare l'attualità in modo un po' folcloristico, usando signore Vrenzole, che non sono due signore, ma siamo semplicemente Ciro e Simone, che però vestono i panni di due signore affacciate al balcone, sempre nell'immaginario, insomma, perché siamo sempre vestiti normali, con vestiti da uomini, insomma, non siamo donne con parrucche e quant'altro. Cioè, non so se Daniele tu l'hai vista, Gay Ingenui. Sì, beh, assolutamente. Assolutamente. Io credo che sia la serie soavemente politica lì. Super scorrettissima. È una serie assolutamente assurda, ragazzi. Gay Ingenui. Gay Ingenui nacque perché, così, fra una battuta fra amici, insomma, c'era Francesco, che il nostro regista, che doveva andare da una parte in fretta, ci dovevamo fare la doccia in due di noi in un tempo brevissimo. Allora lui disse: abbiamo poco tempo per farci la doccia, perché non ce la facciamo insieme? E quindi nacque il concetto di gay ingenui, cioè due, io vorrei due essere ragazzi che per caso si trovano in situazioni un po' omosessuali, ma magari neanche senza esserlo, e vivono così. E poi noi piano piano abbiamo fatto evolvere questa serie, facendo un po' nascere una storia d'amore fra Simone e Ciro, che sono i due protagonisti. Ma la gente ha capito che, cioè, hanno capito tutti che non è assolutamente omofoba, anzi che tutta questa ironia serve a raccontare forse le cose nel modo giusto? Sì, diciamo che alla fine, siccome non c'è nessun tipo di messaggio e c'è solo un'amicizia che è fra persone dello stesso sesso, ma non c'è nessun riferimento all'essere pro o essere contro, alla fine la gente vede una cosa come l'omosessualità semplicemente come una cosa divertente, una cosa leggera, cioè c'è anche un po' la volontà di togliere il peso di tutte queste discussioni sulla sessualità, come va vissuta, come non vada vissuta. È semplicemente un modo per alleggerire anche l'argomento, insomma. Ragazzi, adesso, perché poi la domanda che ricorre è: grandissimo successo sulla rete, ma basta il successo sulla rete? Si vuole, si deve arrivare... Basta, io mi schiero contro le contaminazioni. E voi che prospettive avete? Che cosa desiderate? Rimanere nella rete, andare oltre, andare in altri mezzi? Che cosa vedete nel vostro futuro? Oddio, se la rete diventasse un modo in cui è più facile trovarci un guadagno che poi si trasmette nella vita reale, sarebbe meglio. Cioè bisogna pagare il mutuo, in sostanza. Sì, per pagare il mutuo. In realtà, certo, le cose devono restare vere, pure come devono essere, quindi... Per noi va bene anche fare le nostre cose, basta che siano belle, insomma. Poi, per ora l'effetto collaterale positivo è che vengono magari delle società che, attirate dal nostro lavoro, ci richiedono spot, realizzazioni, e noi siamo una vera società di comunicazione, un'agenzia di comunicazione video. Quindi, per ora una traduzione nel mondo reale c'è e ci fa piacere. Ovviamente, secondo noi, non bisogna mai perdere quello che è lo spirito del web, non mai tradirsi per il mercato, anche perché poi il web è anche cattivo, insomma, ti ammazza se vede che stai facendo cose brutte. Non perdona. Non perdona, insomma, c'è la possibilità, hanno la possibilità di commentarti, lo fanno, quindi... Ragazzi, io sono contentissima di aver avuto The Jackal, perché io sono una fan scatenata. Adoro le signore Vrenzole, mi piacciono tutti i tantissimi prodotti che tirano fuori questi ragazzi napoletani, che la scorsa settimana al Comic Con di Napoli hanno creato problemi di ordine pubblico perché senza hanno... fare nulla, no? Perché detto così, esatto, no, chiariamo, con la sola imposizione della loro presenza per, esatto, i loro fan. Allora io ringrazio tantissimo Alfredo Fela con il Ciro Priello dei The Jackal, grazie per essere stati con noi e grazie per tutte le risate che mi fate fare. A presto, ragazzi. Ciao a voi. Ciao, ciao. A voi. Ciao ragazzi. Radio Tube. Ritorniamo insieme per la seconda parte di questa puntata speciale di Radio Tube che stiamo dedicando alle web series. Dai, dillo che lo dici con l'inglese perfetto. Alle web series. No, dai, adesso però a quest'ora tu non mi puoi deludere, perché questo è il momento in cui io voglio che tu mi ripeta i nostri account. Ah, giusto. Come da copione. Bravo. Scritto da Marta. Bravo. Et di Bellasio. Et Marta Cagnola. Mm-hmm. Hashtag RadioTube. Stefania, vuoi dirci il tuo? Te lo ricordi? Stefania Carini. Brava. La nostra semplice ospite è Stefania Carini, che si occupa di web series, anche di televisione, ma in questo caso l'abbiamo chiamata perché è un'espertissima di web series per Europa, per Corriere.it, per Mainstream di Rai 4. Abbiamo cominciato, sì, a esplorare un po' il mondo delle web series, sì, coi The Jackal. Coi The Jackal. Adesso passiamo ai nostri Monty Python. i nostri Monty Python, no, l'hanno ragazzi, detto anche un po' loro. È un paragone non da poco. Noi in RadioTube parliamo molto spesso di loro, anche se loro non lo sanno, glielo diciamo adesso. Ah, giusto, adesso. È vero. Senza pagare i diritti, peraltro. Ma noi proprio siamo veramente sono dei rapaci. Sono citazioni tipo rassegna stampa. Sì, noi siamo proprio dei rapaci, perché loro sono bravissimi. E lo so che sembra che io sto dicendo che sono tutti bravi, ma è perché io ho invitato quelli che piacciono a me, io scelgo quelli che piacciono a me. Io li ho scoperti qualche mese fa, in particolare li avevo incontrati l'anno scorso al Festival di Taormina, dove hanno rappresentato davvero la novità. Sembrava che fossero il futuro e adesso sono il presente, perché ormai il presente e il futuro è arrivato. Sì. Loro si chiamano The Pills. The Pills, tutto in inglese lo fa apposta. The Pills, e sono straordinari. Io non so come faremo a fare questa intervista, perché ce li abbiamo tutti al telefono. Tutti e tre al telefono e uno in bicicletta. Una cosa pazzesca. Però abbiamo fatto scendere. Allora, vediamo se ce li abbiamo. Sarà un'assoluta follia. Fai l'appello. Luigi Di Capua, presente? Presente, presente. Matteo Corradini, presente? Sì, presente, eccomi. E Luca Vecchi pure, presente? Luca Vecchi, abbiamo perso Luca presente, Vecchi. Presente, presente, no, abbiamo anche fare Luca. La tua spanzo. Ah, vabbè, allora. Io voglio fare una cosa normale. Ragazzi, come sono nati The Pills? Come avete conquistato con una comicità assolutamente... Daniele ha detto i Monty Python italiani. Ragazzi, adesso... Come cinici e surreali. Come si suol dire, sono fatti vostri. E di solito non dico così, ma in radio è meglio dire così. Posso essere Terry Gilliam, Matteo quello che muore. Come sono nati? Sono nati come nascono tutte le belle, cioè dal dolore e dallo strazio, dalla sofferenza di vivere di tre giovani romani che saremo noi. Cioè vi aveva lasciato avuto... la ragazza? Sì, la pazzima, certo, ma le solite cose che capitano ai post-adolescenti di oggi, cioè quindi io ti lascio la ragazza, ti senti fallito, cose così, e quindi ti viene una bella idea finalmente e decidi di cominciare a farla con i tuoi amici. Luca, appunto, che è regista, ha cominciato a girare, noi dicevamo le stupidaggini tutti insieme ed è nata per quella che lì era una palestra, perché insomma ci allenavamo. Cioè Luca, tu giravi e loro andavano a ruota libera? Cioè così? Quasi, mi è bastato riprendere la realtà e ecco fatto. Allora io vorrei intanto mostrare alla radio un frammento di un momento di grande così insegnamento di vita e di vita sentimentale, perché è proprio solo una pillola dei The Pills, perché di solito gli episodi durano una decina di minuti, sono imperdibili, questo è proprio l'inizio. Ho dovuto depurare da alcune paroline, ma non per censurare, perché in radio insomma sembrano un po'... censurato? No, solo un pezzo, una parola. Hai tolto Fabio Volo? No. No, questa parla di un altro. No, ho tolto solo una parolina, però poi su in rete la trovate tutta intera. Poi la dici. No, non la posso dire. Eccoli qua, The Pills. Niente, proprio niente, niente. Niente, niente, non ci riesco. Dai, non ci credo. Sono tre settimane. Non ci riesco. Tre settimane che uscite? Sì. E niente? Niente, zero. Prima base? Zero, zero. Seconda base? Niente, niente di niente. Ma le hai provate tutte? Tutte, guarda. Le hai veramente provate tutte? Le ho provate tutte, lui. Mi manca soltanto il Rufus, però cercavo comunque delle vie legali. Una cosa ci sarebbe. Proprio una tecnica... Dai, parla allora. Una fatality, però. Dimmi, dai, per favore, stai facendolo... Cioè... Tu l'hai portata a casa a vedere un film... Cioè questa sarebbe la manovra? Questo sarebbe il segreto? Cioè a lui, ma per che cazzo mi hai preso? Ma che pensi che io pisci dal ginocchio? È dai tempi proprio, cioè dagli albori della razza umana che la gente si accoppia mettendo un film. Ma tu che film metti? Che ne so, un classico dell'horror. Un classico? Che magari scatta pure la situazione. Altrimenti? Altrimenti, che ne so, per fare l'intellettualoide, un truffo, un romer. Tipo... Un truffo? Sì, sta là. Luca, un truffo? Vabbè, infatti è un diversivo. Che cosa devo mettere allora, un film porno? Luca, c'è soltanto una cosa che stende, spiana la strada verso l'accoppiamento. La cassetta Disney. Io vi amo. Beh, io immagino che queste cose succedano davvero. Cioè, davvero voi mi date questi consigli? Siete straordinari. Ma quale cassetta? Sì, di... sì, perché poi, cioè, qual è quella lingua che originale? Deve essere una cassetta VHS, rigorosamente VHS. E come specificato poi durante il video, deve essere una cassetta risalente comunque alla prima o la seconda era Disney. Quindi tipo dai grandi classici. Non niente fantasia, tipo. Non va bene. Ma dalla Sirenetta in poi? Dalla Sirenetta in poi niente, non si conclude. No, Sirenetta no, come no. Sirenetta va, è colpo sicuro. Sirenetta no. Vedi. Ma alcune scene secondo me sono straordinarie perché sono lo specchio di quello che è la vita dei 20, 25 anni, quasi 30 anni di oggi, tra convivenze forzate, conti da pagare che non tornano, si respira quest'aria e questa cappa di precarietà che però ha effetti esilaranti. Io prima di chiedervi qualcosa di questo vorrei mostrare un altro frammento alla radio dei The Pills, e questo è uno degli ultimi video che io ho amato moltissimo, e che è il bagno occupato con la cappa, con due cappa. Questa storia deve finire, deve finire. Che storia, Luigi? Il bagno. Quale sarebbe il problema del bagno? Qual è il problema del bagno? Te lo dico io qual è il problema del bagno. Io ieri ci ho messo 2 ore per pulire il bagno, 2 ore. E stamattina era uno squat, come tutte le altre volte. Vabbè, Luigi, cioè, lo sai che comunque siamo tanti, il bagno si usa. Poi così è anche più vissuto, sembra una cosa un po' addestrata, no? Senti, Matteo, te non fai testo, guarda, veramente. Ah, regà, però Luigi c'ha ragione, obiettivamente se volete fare la sangria dentro al bidet la potete fare. Va bene tutto, però poi levate i pezzetti di frutta che veramente, cioè, è sgradevole, capito? La sangria dentro al bidet, io... La potete fare. La potete fare, non è che non si può, cioè, però levate i pezzetti di frutta. Certo, che non vogliamo limitare la creatività alcolica di nessuno. Eh no, siamo un paese libero. Ragazzi, certo. I The Pills anche hanno avuto... bagno occupato. Beh, sì, il problema è quello. I The Pills, cioè, hanno avuto successo, infatti? I The Pills sono arrivati in televisione. Eh no, ma io mi schiero contro. Allora, contaminazioni. Adesso qua c'è un dibattito, perché faccio secondo Daniele Bellasio chi sta in rete deve rimanere in rete. Però no, ha scoperto anche che bisogna pagare il mutuo. Quindi... No, no, che bisogna pagare il mutuo lo so da molto tempo. Diciamo, però sono contro le... No, ma scherzo, provoco. Com'è sta contaminazione? Perché andate su Mediaset. Hanno cominciato... Sicuramente noi, nel senso, non è che saremmo rimasti tranquillamente anche su internet. Il problema è che internet adesso non è ancora un sistema che garantisce comunque una retribuzione sufficiente. Noi diciamo che comunque adesso iniziamo ad avere una certa età, e quindi vorremmo anche, che ne so, tipo poter andare a portare la ragazza a mangiare il pesce il venerdì sera, tipo, per esempio. Wow, ecco. Mica solo la pizza da sport o il kebab. Anche... Al di là dell'aspetto, al di là del mero aspetto venale, vorremmo anche, insomma, che The Pills venisse conosciuto in qualche modo in maniera mainstream. Sì, ci piace essere nicchia, però insomma... ci piacerebbe anche poter dire la nostra, far vedere, insomma, il frutto del nostro lavoro, sperando di poter divertire come divertiamo già su internet, ecco. Avete... Ma non è che ce ne andiamo da internet, comunque, che sia chiaro, cioè continuiamo a pubblicare, insomma, fino a quando non ci tagliano i cavi del wifi, penso che continueremo. C'è un episodio bellissimo in cui rimanete senza wifi e si scatena il panico. Allora, avete esordito il 7 maggio su Italia 1, poi ancora il 9 sempre su Italia 1, poi su Italia 2, quindi insomma, ragazzi, c'è qualche differenza nelle puntate che avete registrato per la TV? Bella oppure domanda. Vi hanno detto siate The Pills? No, assolutamente no, perché in realtà le puntate sono state tutte registrate insieme con quelle che abbiamo fatto per internet, quindi in realtà nessuno ha messo bocca su quello che dovevamo dire, ma proprio nessuno, quindi in realtà se notate una differenza è semplicemente legata a, non lo so, una scelta nostra o di mettere alcuni episodi piuttosto che altri, magari dei episodi più tranquilli per la televisione, ma nessuno ci ha veramente corretto una virgola. Tra l'altro, secondo me Luca se l'è girato meglio quelli va a televisione, ci si è messo proprio de fino, secondo me. Ah, per far bella figura. Ha messo l'abito bello. Ah. Però in realtà non solo Mediaset, perché farete qualcosa anche per la Rai o sbaglio? Per la Rai faremo un progetto che abbiamo scritto. Il Festival di Sanremo. Abbiamo iniziato a scrivere, sì, magari. Pensa che bello. Ah, vi candidate? Ma pensa, dopo Beh, sarebbe bello, dopo Piff e The Pills, sarebbe bellissimo. Cominciamo subito a lanciare l'idea. È un'ideona. Compro casa mia madre più grande, scusa, no? Mi sa di sì. Seguirà Lucarelli in Blu Notte, sicuramente. Ah, quello fantastico. Mamma vuole casa più grossa, come dice un grande artista del nostro tempo. Esatto. E quindi questo, com'è che si chiama? Zio Gianni? Zio no. Gianni, ma è solo scritto da noi, non è interpretata. Ah, è solo scritto da noi. È scritto con la D e la J, come Django. Ah, straordinario. È stato scritto insieme a Sidney Sibilia, che sarebbe che dirigerà anche alcuni episodi. Sidney Sibilia è il regista di Smetto Quando Voglio. Ragazzi, c'è un nome che sta aleggiando in questa stanza, ma non so perché, dovete dirmi aleggia. Perché aleggia un Dylan Dog. Sì, assolutamente. Perché aleggia questo Dylan Dog? Qualcuno mi può dire o smentire? Abbiamo realizzato una sorta di fan movie utilizzando la tecnica di crowdfunding, cioè ovvero chiedendo agli utenti di internet una mano per cercare di realizzare questa trasposizione dell'Indagatore dell'Incubo. Però è un progetto che ha relativamente a che fare con i The Pills, è una cosa... un'altra cosa, insomma, ecco. Ragazzi, allora io devo ringraziarvi per essere stati con noi in questo happening dedicato ai The Pills, Luigi Di Capo, a Matteo Corradini, Luca Vecchi. Grazie ragazzi, mi raccomando, fate un sacco di episodi perché noi siamo assolutamente dipendenti dai vostri episodi. Buona The biciclettata Pills. Abbiamo scoperto i The Jackal, abbiamo scoperto i The Pills. Io direi che dopo il traffico ci ritroviamo e cerchiamo di capire dove stiamo andando con le serie. Ah, una TV. Puntata sociologica. Sì, andiamo. Dove saremo? Cosa cerchiamo c'è dietro l'angolo? Cerchiamo anche di capire cosa succederà dopo in questa puntata speciale che abbiamo dedicato alle serie che in realtà nascono e finiscono sul web. Radio Tube. Come passa il tempo in fretta quando ci si diverte, in particolare quando si parla per un'ora delle serie web che ci piacciono. Ogni tanto io cerco di trovare una definizione, mi viene da dire le serie televisive che partono dalla rete, che rimangono in rete o che finiscono in televisione, perché che poi prescindono dalla TV normale. Ne stiamo parlando, abbiamo parlato insomma con i nostri ospiti, con i The Pills e The Jackal, che sono poi i più amati dai ragazzi e sono finiti tutti sulla televisione mainstream, quella ancora che si guarda nel televisore anche. Ma con Stefania Carini di EuropaCorriere.it, Rai 4, che ci sta facendo compagnia in quest'ora di questo speciale Radio Tube, stiamo un po' capendo quello che sta succedendo. Abbiamo sentito fino a qualche minuto fa gli irresistibili The Pills e loro hanno fatto uno dei loro episodi che prendeva un po' in giro una serie che ha avuto un grandissimo successo, che era Una mamma imperfetta. Loro hanno fatto la mamma perfetta. Io ve ne mostrerei solo un meno di un minuto senza per censure. Entrare no, questa senza censure, per entrare un po' nell'argomento. Ciao a tutti, io sono Simona, voi non mi conoscete, ho deciso di tenere un diario, sì, un diario, è il diavolo tutto, è il diavolo le paure, è il diavolo le paranoie, la tristezza, l'eroina, io questa volta vado fino in fondo. Il segreto secondo me è che non ci si deve pensare troppo, no? Perché più ci si pensa e più arrivano i problemi, è tutto programmato, non manca niente. Ma che cazzo ci fai qua, scusa, ma chi ti ha fatto entrare, scusa? Dal balcone. Ma siamo al terzo piano. Sì. Lo so, mi sono arrampicata, amore, ti devo dire una cosa importantissima, però non ti devi arrabbiare. No, diverso. Luigi. Ah, perché è una cosa veramente importante, però tu mi devi... Shh, sono incinta. Vabbè, sono contento per te, mi fa piacere. Aspettiamo, un bambino, erano i due. Ancora ti arrabbi, lo sapevo che ti arrabbiavi, mi avevi detto che non ti arrabbia. Va bene, me lo accollo. Va bene, me lo accollo. Allora, i The Pills disse sacrantissimi, hanno preso un po' in giro questa Mamma Imperfetta, che tutti hanno visto perché ha avuto un grandissimo successo, è partita dalla TV, da un sito di un quotidiano che era il Corriere della Sera, con questo video diario che appunto questo episodio prendeva un po' in giro, della mamma che raccontava la sua vita di acrobata. Prima è andata in rete, poi è andata sulla televisione generalista, è stato un esperimento interessante e un esperimento di un certo successo. Assolutamente, lì la cosa interessante è che è stata la prima serie web italiana mainstream, cioè pensata per essere mainstream, perché dietro c'erano due grandi editori comunque italiani, quelli del grande pubblico, prima sul web, poi è andata su Rai 2, quindi un mix interessante, un mix che ha saputo innovare, che è andata anche ad allargare l'idea di serie web per un pubblico più ampio. Allo stesso tempo a questo punto ha aperto una fascia all'interno della programmazione di Rai 2, e non a caso lo zio Gianni di cui ci parlavano, The Pills, andrà proprio nello stesso orario di Una Mamma Imperfetta, quindi a quanto pare la Rai ha creato un luogo adatto a questa sperimentazione che parte dal web, arriva in TV e viceversa, perché poi in fondo il vero punto della questione è questo: in un periodo di abusata convergenza, cose web e cose televisione, forse non è più così facile definirlo. No, questo è giusto, perché poi sperimentare è assolutamente corretto, sempre innovativo. Secondo me c'è un rischio: quello che si vede sul web si vede in modo diverso. Io stamattina, camminando verso la farmacia, ho visto, c'era un ragazzo con le cuffiette che guardava dentro il proprio telefonino ridendo, chiaramente qualcosa tipo web serie. Ovviamente oggi è uno, in futuro probabilmente saranno molti di più. Il concetto di web series è qualcosa che tu puoi vedere in qualunque momento, in qualunque modo, in mobilità. Quando poi, per esempio, House of Cards, che nasce in quel modo, tutto sommato con Netflix, diventa invece l'evento del mercoledì sera alle 21, in un certo senso perde la sua natura iniziale. Io non sono così convinto che voler far diventare ciò che nasce sulla rete buono anche per il pubblico generalista sia un buon modo di innovare. Questo è un po' il dubbio, la paura che io ho. In realtà sicuramente rimangono canali in parte separati. È anche vero che con la moltiplicazione attuale dei canali televisivi tu hai fasce di pubblico, canali tematici sempre più dettagliati, e quindi ti puoi permettere anche di sperimentare, certo, qualcosa di diverso. Tu parlavi giustamente di House of Cards, perché House of Cards con Netflix ci arriva attraverso la rete, quindi effettivamente lì che cos'è? È una serie del web. In realtà è modellata totalmente da un punto di vista stilistico su modello dei grandi telefilm americani. Anzi, se non addirittura sul teatro, direi. Se non addirittura su quella di un film, perché siccome in realtà mi lasci le puntate tutte, almeno Netflix, io le posso scaricare tutte nello stesso giorno, a quel punto è come se io avessi un grande film diviso in molte puntate. Allora anche quello, come dire, le distinzioni si fanno sempre più sottili. E poi c'è Amazon, perché anche Amazon sta producendo telefilm, e quelli proprio li vedi solo su computer. Anche in questo caso sono però, come dire, più vicini al modello tradizionale televisivo, tant'è che uno dei prodotti che adesso verranno elargiti da Amazon è The After, creato da Chris Carter, che era l'autore di X-Files, quindi un grande autore televisivo. Per fare il bastian contrario, dico che è pericoloso immaginare la rete come il primo gradino della scala sociale che parte dalla rete per fare, diciamo così, i provini di chi può andare in TV. Poi va in TV, poi va al cinema e poi finisce nel grande colossal. Ho la sensazione che la rete sia la cosa che queste cose le mette assieme, che ci sta sopra, mentre spesso nella produzione, soprattutto video, si ha l'atteggiamento di dire la rete è il primo gradino. Ed è anche per quello che ci sono quei problemi anche economici che si diceva prima. La rete, mica ti devo pagare se lo fai in rete, no? Eh no, certo, il problema è che gli altri mezzi di comunicazione non vogliono pagare la rete. D'altra parte, chi lavora in rete, in qualche modo, appunto, il mutuo lo deve pagare. Il problema vero, come al solito, no, secondo me il problema è, come al solito, trovare finanziatori, trovare un mezzo di produzione, un modello di business adatto alla rete. Effettivamente non ci sono riusciti i grandi giornali, i grandi editori, è difficile anche per questi ragazzi da soli. In America è già differente, ma in America il mercato è totalmente differente, è più ampio. Anche produrre una singola serie web in America significa avere un pubblico potenziale enorme, e quindi acquistare fare lo sponsor per una serie web. Per lo sponsor ovviamente significano grandi numeri, comunque. The Pills, Pinuccio, altri 4-5 di questi bravi gruppi si mettono assieme, fanno la loro televisione sulla rete o con YouTube, fanno un accordo, è una cosa possibile? Ora, sicuramente è una cosa possibile, e su YouTube loro ci sono già, e quindi qualcosa sicuramente guadagnano attraverso gli sponsor. Ovviamente l'investimento pubblicitario che però c'è sulla rete è molto basso. È vero che si inizia giustamente anche inizialmente con poco budget e si riesce anche a portare avanti dei progetti proprio perché la tecnica oggi lo permette. Anche è vero che però non vedo perché si debba sempre risparmiare sulla creatività umana. Posso risparmiare su quella tecnologica e va benissimo, ma su quella umana va sempre riconosciuta, sempre di più. È un discorso che si può allargare anche ad altri ambiti, ma il nostro tempo anche per questo sabato è finito. Però ci ritroviamo domani alle 15 con un'altra puntata di RadioTube. Puntata della domenica. Ringrazio Stefania Carini per essere stata con noi, visto che abbiamo parlato di web series per tutti questi mesi, almeno una puntata per approfondire questo tema ci voleva. Daniele, noi ci rivediamo domani, anche con Valeria Bernardi in regia. C'è sempre lei domani alle 15 ancora con RadioTube.